41. L'estuario del San Lorenzo era un sangue misto, ibrido d'acque diverse, più salato di un fiume, più dolce dell'oceano. Campo di battaglia per opposte correnti, ondate di piena e maree che influenzavano la navigazione fino ai laghi, nel cuore del continente. Peter pensò a se stesso, estuario tra due popoli, via d'uscita e porta d'ingresso. «È come la canna di un fucile», disse indicando la mappa. «Un fucile?» domandò Daniel Klaus, perplesso. «Di quelli che si allargano in fondo». «E noi allora saremmo il proiettile?» «Sicuro, un proiettile di legno, tela e carne». «Ma così, ragazzo mio, spariamo all'Inghilterra», obiettò Klaus. Il giovane Johnson alzò le spalle. Il gioco non gli sembrava poi così importante. «Meglio un corno da caccia», intervenne l'altro. «E noi?» domandò Peter, per non essere da meno. «Noi siamo il richiamo. Il re non potrà fare a meno di ascoltarci». L'estuario del San Lorenzo era il buio della stiva. 30 uomini in una scatola di legno di 6 passi per lato, un secchio d'acqua putrida, un catino per i bisogni, gli avanzi come unico pasto. Ethan Allen aveva provato a ribellarsi, a esigere che lo trattassero da gentiluomo, gli evitassero l'umiliazione dei ceppi, lo facessero parlare col signor Watson, il proprietario della nave. «Sono un colonnello dell'esercito continentale americano», aveva protestato. «Questo è un trattamento da bestie, indegno di un ufficiale». Grossi topi neri nuotavano nella sentina che arrivava alle caviglie. Allen ne aveva colpito uno con un calcio rabbioso, sollevando schizzi tutt'attorno. Dalla feritoia un paio di occhi giallastri lo fissavano, stagliati su pelle scura. Succedeva quando meno se l'aspettava. Alzava il capo e quegli occhi bovini erano lì, irritanti come le mosche attratte dalle feci nel bugliolo. Forse il negro non parlava nemmeno la sua lingua. «Siamo uomini, non animali!» urlò Allen, esasperato a quegli occhi spenti. «Il mondo saprà come Re Giorgio tratta i prigionieri!» Scagliò la ciotola di metallo contro la feritoia e la mancò di poco. Quando una voce cavernosa giunse da dietro la porta di legno, i prigionieri alzarono il capo dalla propria amarezza. Nessuno aveva ancora rivolto loro la parola da quando li avevano tradotti là sotto. «Sai chi sono io, colonnello?» Era difficile dire se la voce appartenesse a quel volto, perché la feritoia non inquadrava il viso intero. Allen, il fiato grosso per la rabbia, rimase zitto. «Mio padre era figlio di un principe», continuò la voce. Le parole avevano un timbro basso e vibrante. «Uomini bianchi lo caricarono su una nave come questa, insieme a tanti altri. Tanti che nella stiva non potevano nemmeno sedersi. Metà di loro morì nella traversata. Tu, colonnello, arriverai vivo. Sei fortunato». «Io sono un uomo libero e sono un ufficiale», tuonò Allen con espressione spiritata. Gli occhi non risposero. La feritoia si richiuse. L'estuario del San Lorenzo era un lento congedo. Centinaia di miglia separavano Quebec dall'oceano. Joseph guardò le creste innevate che l'Adamant si lasciava alle spalle. Parevano richiudersi al passaggio, come le acque del Mar Rosso sull'esercito del Faraone. Se non puoi tornare al punto di partenza, l'unica scelta è proseguire, andare avanti, spingersi più in là. Joseph aveva tessuto a razzi di pensieri. A Londra, come Hendrik tanti anni prima. Quante volte aveva sentito quella storia? Hendrik alla corte della regina Anna. Con lui c'era il padre di Canada Radunca, il patrigno di Joseph, conosciuto come Brant, da qui il cognome che Joseph portava. Canada Radunca aveva raccontato tante volte dei 4 re indiani accolti con tutti gli onori. A Londra, Hendrik aveva negoziato l'appoggio delle 6 nazioni alla regina nella prima delle guerre contro i francesi. Aveva perorato un'alleanza tra pari. Lo avevano portato a teatro e ai ricevimenti di corte. Celebri pittori lo avevano ritratto. Tutti si inchinavano al suo passaggio. Durante quel viaggio, Hendrik doveva avere l'età di Joseph. L'estuario del San Lorenzo era una risposta inattesa. Alle spalle di Guy, seduta nel pagliericcio, Nancy Klaus intratteneva le bambine. Spiegava che il fiume, migliaia di anni prima, s'era scavato una via verso il mare. Aveva eroso il granito, strappato terra alle sponde, abbattuto foreste. Guy pensò che a raccontarla in quel modo sembrava che il fiume avesse deciso dove passare. In realtà il San Lorenzo aveva eroso il granito che la corrente gli consentiva, non un granello di più. Aveva abbattuto foreste fin dove le piene riuscivano a salire e strappato la terra che si lasciava strappare. A ben guardare, pur con tutta la forza delle sue acque, il San Lorenzo s'era dovuto accontentare dell'unico letto possibile. La scelta era soltanto un modo di dire, un punto di vista ristretto che non teneva conto di troppi dettagli. Allo stesso modo, pensò, gli uomini si convincono di scegliere, ma il cammino che percorrono è sempre l'unico che hanno a disposizione. Guy era il fiume. Pensò di aver preso la decisione migliore, ma solo perché era l'unica possibile. Il fiume doveva aprirsi la via fino al mare, per non finire in secca e morire.